all of mine. La danza magica, stesa di luce. L'aria santo, la loro voce. In ogni luogo della città. Si muovono leggeri attraverso i vetri nei bar e guardo splendere. Voglio solo vivere per ed amore. Sono in cerca di storie vere. Splendid.